Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Parleremo di nuovo del DL Rilancio, che io ho battezzato DL Ristoro, ma insomma ieri abbiamo analizzato tutti i punti sulle imprese, i 16 miliardi e mezzo, tra cui i 6 miliardi a fondo perduto, le novità sulla cassa integrazione, soprattutto per quello che riguarda la deroga, la cassa integrazione in deroga e... il bonus autonomi. Ne parleremo con chi rappresenta i consulenti del lavoro, perché invece a noi continuano ad arrivare segnalazioni che a questo punto ho difficoltà anche a comprendere nelle motivazioni di persone, cittadini, che sostanzialmente non hanno ottenuto neanche i 600 euro. E parlo di categorie professionali, come poi ne parleremo, insomma, che oggettivamente da chi faceva l'istruttore di nuoto a chi aveva mansioni, cioè obiettivamente non si capisce perché non abbiano ottenuto i 600 euro ancora, anche perché il governo ha chiarito che in automatico chi li ha ottenuti a marzo, per il mese di marzo li ha ottenuti magari da aprile, in automatico li riavrà anche sul mese di aprile, poi 1000 euro se non fai parte degli ordini da maggio. Quindi rischia di esserci, oltre che il danno, anche la beffa, perché se tu non li hai ottenuti per motivi sbagliati a marzo, non vai neanche in automatico a riottenerli nel mese di aprile. L'altro tema riguarderà la cassa integrazione in deroga, pure qui per capire se con la decisione del governo del governo e delle regioni di bypassare le regioni e i 21 regolamenti, diciamo, nazionali, andare direttamente sull'INPS, con l'INPS che può anticipare entro 15 giorni il 40%, se arriverà qualche modifica in positivo sulla cassa integrazione in deroga, che, lo ricordo, è quella che appunto non c'era prima, perché prima c'era l'ordinaria, che resta, e la straordinaria fino a 5 dipendenti. Quella in deroga vale anche se hai fino a un dipendente. E quindi è fondamentale anche quella, perché stiamo parlando delle piccole, piccolissime imprese, imprese artigiane, imprese commerciali e quant'altro. E poi le garanzie alle piccole e medie imprese, quindi il microcredito soprattutto mi interessa, quindi i prestiti fino a 25.000 euro, fatto 100.000 i ricavi, cioè 25 fino al massimo di 25.000 euro come esempio del 25% dei ricavi. Ebbene, anche lì le banche italiane continuano a darci i dati sulle domande, che sono salite, poi dirò, ma le domande non vuol dire che poi le domande siano state evase, anzi gli stessi consulenti del lavoro hanno fatto un sondaggio e hanno dei dati molto bassi, e anche qui non capisco perché le banche abbiano tutti questi problemi nell'erogare fino a 25.000 euro, dove c'è il 100% della garanzia dello Stato. Abbiamo parlato anche del tema della responsabilità, alcuni vorrebbero la manleva nel caso un domani l'azienda a cui prestano soldi dovesse fallire, tu potessi essere accusato, potresti essere accusato di aver partecipato al fallimento, di non aver valutato il rischio. Però io temo che vi siano anche richieste, da quello che leggiamo, richieste di documenti supplettivi ingiustificate. Il Medio Credito Centrale e il Fondo di Garanzia ha detto che le banche possono procedere in maniera molto più rapida. Lo stesso ministro Gualtieri ha detto: con le norme attuali in 48 ore il prestito può essere erogato, ed è certo che devi controllare l'antiriciclaggio, non vogliamo dare soldi alle mafie e la posizione del cliente, ma una volta che ce l'hai, maggiore rapidità. Allora, dunque, sono un professionista, mi scrive un ascoltatore, ho ricevuto i 600 euro di marzo, riceverò in automatico per aprile, non ho avuto un calo di fatturato maggiore al 33% rispetto al 2019, riceverò i 600 euro di maggio. Beh, l'abbiamo chiarito ieri, i 600 euro di maggio, a maggio dovrebbero essere a 1000 euro senza una soglia di reddito ma con alcune conduzioni, riconosciuto ai liberi professionisti titolari di partita IVA che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% nel secondo bimestre. Quindi, da come la capisco io, maggio no, se non ha avuto un calo superiore al 33% nel bimestre, nel secondo bimestre, quindi chiaramente marzo e aprile. Attenzione, come spiegava ieri Giorgio Pogliotti, però, se si fa parte o no di un ordine, se sei un professionista che aderisce a un ordine. E parleremo appunto anche della parte che riguarda i micro prestiti alle imprese fino a 25.000 euro. Poi c'è l'altro pilastro che era rimasto fuori ieri nell'analisi, le misure per le famiglie, che comunque valgono 4 miliardi e 600 milioni. I quattro pilastri, abbiamo detto, una sono le spese sanitarie e per l'emergenza, sanità e scuola, l'altro riguarda appunto l'industria, le imprese, 16 miliardi e mezzo tra cassa integrazione e aiuto e fondo perduto, le misure poi per il lavoro, a cui si aggiunge anche il bonus autonomi, e le misure per le famiglie che tratteremo oggi, quindi il reddito di emergenza fino a 1 miliardo, congedi parentali e bonus babysitter, ci sono 700 milioni, disabilità e il famoso bonus vacanza, che però, come abbiamo capito, è molto molto complicato da usare, secondo me, e continuo a dirlo, sulla fronte turismo non basta, c'è pochissimo in questo. Certo che il turismo può usare la cassa integrazione anche in deroga, come gli altri settori industriali, certo che ci può utilizzare i 600 euro, ma continuo a dire, ci vorranno misure dedicate non al turismo, in senso stretto, a tutto quel mondo del commercio che avrà estreme difficoltà anche dopo l'ultima riapertura. Di questo parleremo, ultima o penultima. Alcuni la chiamano fase 2, fase 3. Io la continuo a chiamare fase 2, quella che dovrebbe scattare da lunedì, perché da quello che abbiamo capito non sarà più necessario l'autocertificazione per spostarsi all'interno della regione, verranno, quindi cadranno anche gli ultimi limiti, o meglio, oltre ai congiunti si potrà vedere chi si vuole, amici e quant'altro, e quindi l'autocertificazione diventa chiaramente inutile, mentre verrà mantenuta l'autocertificazione per i motivi già visti, quindi lavoro, necessità, emergenza sanitaria, per lo spostamento da una regione all'altra. Non è ancora chiaro se per spostarsi da una regione all'altra potrà essere invece utilizzato il tema dei congiunti, come è avvenuto all'interno della regione, cioè vedere i genitori, i figli o i cugini di vari gradi di parentela. Per quello che riguarda lo spostamento delle regioni, dicevo, l'indicazione che riceviamo è dal dopo il 2 giugno, quindi dal 3 giugno. Per quello che riguarda le riaperture invece, sembrerebbe abbastanza confermato che tutte le regioni potranno riaprire tutto quello che ancora è chiuso, quindi va dai negozi di qualunque genere di abbigliamento, alle parrucchiere, centri estetici, sulle palestre stiamo aspettando, c'era un'ipotesi del 25 maggio, ma l'altra cosa che è chiara, e ne parleremo più avanti, è che l'approccio sarà diverso, cioè lo Stato centrale, il governo dirà alle regioni, darà maggiore autonomia alle regioni, dicendo gestite voi il tema delle riaperture sulla base anche però di parametri medici che dovete fornirci. Non si è capito bene se le regioni potranno andare in deroga sulle direttive che il governo darà in base anche alle tabelle INAIL. Faccio un esempio: la distanza di 2 metri dal parrucchiere, la distanza di 2 metri al ristorante e 4 metri quadrati 2x2. Le regioni potranno andare in deroga solo in maniera più restrittiva, oppure, come alcune hanno già fatto capire, possono andare in deroga anche in maniera più morbida, quindi riducendo le distanze, perché questo rischia poi di creare un grandissimo confusione in tutto il paese. Ultima nota e poi partiamo, speriamo che arrivi molto presto la comunicazione del governo, perché siamo a venerdì, è vero che molti si stanno attrezzando nel frattempo, però prima la dai la comunicazione chiaramente, e prima è meglio, perché in questo caso uno deve anche prepararsi a lunedì. Noi lunedì comunque con il GR seguiremo dalla mattinata e lungo tutta la giornata le riaperture di bar e ristoranti, bar soprattutto la mattina, negozi e poi anche ristoranti, quelli che vorranno aprire. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Mi chiede un ascoltatore: ma che senso ha lasciare il ponte il 2 giugno senza spostamenti tra le regioni? No, guardi, che è proprio questo, da quello che ho capito io. Si fa da dopo il 2 giugno perché si teme che proprio il ponte del 2 giugno, che è un bel ponte, lo dico per chi ama i ponti, possa portare a un flusso enorme di persone da una regione all'altra, diciamo, cioè, soprattutto da Lombardia. È inutile girarci attorno, Lombardia e Piemonte verso la Liguria o verso la Toscana o anche verso il sud. Siccome non tutte le regioni sono uguali e Lombardia e Piemonte hanno ancora un altissimo numero di contagiati, oltre che di ricoverati in terapia intensiva e anche nel caso della Lombardia di decessi, attenzione, è chiaro che si apre dopo il 2 per evitare le code in autostrada, il ponte, le spiagge. Mi sembra abbastanza chiaro questo. Dicevo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo con la borsa. E poi c'è il tema della responsabilità, il tema dell'infortunio sul luogo di lavoro. Sapete che questo ha creato moltissima preoccupazione nelle imprese, ma anche negli esercizi commerciali. Cioè l'idea che se tu poi vai al lavoro e vieni contagiato, in automatico è, non se ti contagia il lavoro, ma in automatico un nuovo contagio può essere chiamato contagio sul luogo di lavoro. Allora, io vi faccio ascoltare prima il ministro Patuanelli su questo, perché era un tema delicatissimo. Molte imprese, ripeto, non solo quelle grandi e medie, ma anche quelle, erano terrorizzate all'idea di cause legali, anche perché un incidente sul luogo di lavoro è chiaramente dimostrabile. In questo caso un virus, dimostrare che tu lo prendi sul luogo del lavoro, non l'hai preso a casa, non l'hai preso quando sei uscito, o tu garantisci, come abbiamo sempre detto, tamponi a tutti, ma non ce ne sono abbastanza, o se no diventa difficile. Allora, Patuanelli, oggi ospite di Simone Spezia e Maria Latella, proprio sulla l'eventuale persona che dovesse contagiarsi come incidente sul luogo, infortunio sul luogo di lavoro. Io credo che sia una preoccupazione giusta quella che stanno segnalando gli imprenditori, le imprese che rispettano il protocollo e che consentono ai propri lavoratori di lavorare in sicurezza non possono rispondere di contagi che non possono essere dimostrati essere avvenuti all'interno dell'azienda. Credo che sia un principio che è sacrosanto. È giusto che l'impresa metta in condizioni di sicurezza i propri dipendenti, ma quello è il massimo che possiamo chiedere all'imprenditore. Sarà scritto, perché poi si può sempre ricorrere, cioè c'è sempre un tribunale al quale rivolgersi, e dunque è ovvio che il governo e il Parlamento si dovranno occupare di questo tema. Allora, poco fa è uscita l'INAIL, che è l'Istituto Nazionale appunto per la sicurezza, e ha detto: attenzione, l'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile dell'impresa. Il datore di lavoro, spiega l'INAIL, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Dal riconoscimento come infortunio del lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. La responsabilità dunque deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo, della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL. Pertanto il riconoscimento dell'infortunio non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, neanche in sede civile, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa per aver causato l'evento dannoso. E secondo la CGIL, dice, il chiarimento dell'INAIL è un fatto positivo, e quindi non fa, chiarisce l'INAIL che non discende in automatico, come invece in altri casi, non assume rilievo per sostenere l'accusa in sede penale e in sede civile il riconoscimento dell'infortunio. anche perché riconosce l'INAIL che i criteri per riconoscere la colpa e il dolo sono totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL. Comunque, sì, ha ragione però chi mi scrive, ha ragione anche Simone Spezia, ve l'ho chiesto al ministro Patuanelli, va bene l'interpretazione dell'INAIL, io preferirei proprio un chiarimento del governo nero su bianco, non vorrei mai che quella fosse solo detta così, non è un'interpretazione, cioè non è una opinione, è l'interpretazione dell'INAIL, e quindi senza dolo o colpa l'azienda non rischia, però magari per non sbagliarsi forse una precisazione governativa non sarebbe male. Allora, la borsa, dicevo, oggi praticamente piatte tutte le borse, ogni tanto per fortuna capita, invariata Milano, invariata Parigi, più 1% Francoforte, più 1,16 Londra, meno 0,6 il Dow Jones, segnalo a Piazza Affari ricordati più 5,80, Diasorin in più 4,70, recupera Exor più 3%, Nexi più 2,80, Ferrari più 2, Italgas più 2%, Amplifon più 1,80 come Atlantia, fronte opposto, Estima Electronics meno 2,80, Leonardo meno 2, Enel meno 2, Poste meno 1,80, Banca Mediolanum meno 1,70%. Come sempre notizie di carattere internazionale, oggi c'è sostanzialmente la produzione industriale in Cina che segna il primo rialzo del 2020, ho fatto più 3,9%, un rialzo più forte dell'1,5 atteso. La Cina poi ha chiesto agli Stati Uniti di incontrarsi a metà strada, dopo che ieri Trump ha minacciato di tagliare le relazioni bilaterali. Ha detto il ministro degli esteri cinese Zhao Lijian, il taglio delle relazioni non è nell'interesse di nessuno dei due paesi. Veniamo all'euro invece, per quello che riguarda il primo trimestre è confermato in frenata, meno 3,8%, ricordo che nel quarto trimestre del 2019 si era registrata una crescita dello 0,1%. E ancora, per quello che riguarda invece lo spread, mi chiedete, siamo a 241 punti, un poco mosso grazie alla Banca Centrale Europea. Oggi si è preso anche il dettaglio del BTP Italia, che è la nuova emissione ideata per finanziare gli interventi relativi al Covid, all'emergenza Covid. Prende il via dal lunedì 18 maggio con un tasso cedolare reale minimo garantito dell'1,40% e un premio fedeltà raddoppiato. Il tasso definitivo sarà stabilito con una successiva comunicazione dopo la quarta giornata di emissione, quindi nella mattinata di 21 maggio. Il titolo con godimento 26 maggio 2020 e scadenza 26 maggio 2025, quindi un BTP a 5 anni, è indicizzato al tasso di inflazione italiana con cedole corrisposte ogni 6 mesi. E la prima fase del collocamento è 18 fino a 20 maggio, è dedicata ai risparmiatori individuali affini e poi quindi il cosiddetto retail. Dicevo, il premio di fedeltà a chi lo porta a scadenza è doppio rispetto alle precedenti emissioni, pari all'8 per mille del capitale investito. E tutta quanto verrà raccolto, come dicevo, sarà interamente destinato a finanziare i provvedimenti del governo per fronteggiare l'emergenza Covid, incluso il DL rilancio. Poi c'è una seconda fase che avrà luogo tra il 21 maggio dalle 10 alle 12 ed è dedicata solo agli investitori istituzionali. Il carrello della spesa, l'inflazione ad aprile in Italia a zero, era immaginabile. Quello che è impressionante è l'aumento dei prezzi invece nei generi a maggior consumo. Il carrello della spesa è cresciuto del 2,5%. Alimentari non lavorati più 4,3, beni alimentari più 2,7, servizi e comunicazioni invece sono calati. Insomma, sostanzialmente i beni a maggior consumo, che ad aprile erano soprattutto i generi alimentari, sostanzialmente non si poteva consumare molto altro, sono saliti del 2,5%. Dunque, i dati dell'Istat sul fatturato, è il crollo maggiore della crisi del 2008, diminuito del 25,8%, attenzione, è il mese di marzo, adesso io non mi ricordo quale fu il dato sulla produzione industriale nel 2008, fine 2008 e 2009, inizio 2009, temo però che andremo a, temo, a battere il dato del 2008, perché il mese di marzo ha avuto una settimana, in realtà in alcune aree del paese fino all'11 marzo, in cui si lavorava, in cui tutto era ancora aperto, e quindi temo che aprile, dove il lockdown è stato molto più forte, il dato sarà anche peggiore. Comunque meno 25,8% in termini tendenziali, cioè rispetto a un anno prima, di cui meno 27% fatturato sul mercato interno e meno 20% su quello estero. E gli ordinativi diminuiscono rispetto all'anno prima, marzo del 2019, del 26%, con diminuzioni in entrambi i mercati, meno 29% quello interno, meno 23% quello estero. L'unica variazione positiva, come immaginabile, si registra nell'industria farmaceutica, più 20%. Il peggior risultato è nell'industria dei mezzi di trasporto, automobili, meno 55%. Il calo dei fatturati ordinativi ha raggiunto valori simili a quelli registrati nel 2008-2009. E la Confindustria, col centro studi, stima un PIL in calo quest'anno del 9,6% contro il 6% previsto dal 31 marzo. Questo come conseguenza del prolungamento del decreto dal 13 aprile al 4 maggio e un più forte calo della domanda domestica ed estera rispetto a quanto stimato. E quindi, secondo il centro studi Confindustria, il PIL farà meno 9% quest'anno. Mi chiedete della pubblicazione del DL Rilancio o Ristori in Gazzetta, che lo rende appunto legge. Sentiamo su questo il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, sempre 24 mattino, con Simone Spezia e Maria Latella. Siamo per pubblicare in Gazzetta tra oggi e domani il decreto da 55 miliardi. Credo che sia la manovra finanziaria più ampia fatta nella storia del nostro paese. Parlare di lentezza dell'azione di governo non sia esattamente corrispondente alla realtà dei fatti. Credo sia un dibattito che sta anche un po' stufando l'opinione pubblica su cosa farà chi e quando. Io credo che l'Europa deve garantire non prestiti ma fondo perduto. Il recovery fund è fondamentale, deve arrivare il prima possibile, deve avere una dotazione di almeno 1.000 miliardi e deve consentire agli stati membri di supportare la crescita dei loro paesi e delle loro imprese. Io credo che sia questo l'unico ragionamento da fare. Ulteriori prestiti credo che siano non necessari. Allora, ultima notizia prima di andare poi sul meteo e parlare appunto dei 600 euro della cassa integrazione in deroga, di prestiti, microprestiti alle imprese. Il turismo, io continuo a battere sotto tasto. Allora, è chiaro che a marzo ed aprile per le località di mare e anche in parte quelle di montagna hanno perso poco, ed ecco perché si diceva ieri attenzione, perché quando il governo mette giustamente 6 miliardi di aiuti a fondo perduto e vanno calcolati con la differenza di almeno il 33% di fatturato tra l'aprile del 2020 e l'aprile del 2019, e poi il governo interviene fino a 400.000 euro ti dà il 20%. Se, e poi ci sono tutte le varie fasce, ecco, fino a 400.000 euro, se hai avuto un fatturato inferiore a 400.000 euro hai il 20%, il 15% per l'impresa con fatturato da 400.000 a 1 milione, il 10% con ricavi da 1 milione a 5 milioni, e ti dà, poniamo, il 20% della differenza di fatturato tra quest'anno d'aprile e l'anno scorso d'aprile, a patto che sia superiore a un terzo. E questo taglia fuori molte imprese turistiche, perché sappiamo che ora erano chiuse e quindi va bene per chi lavorava ad aprile. Però sappiamo anche che il mondo del turismo difficilmente, a differenza di altri settori, anche riaperto, potrà lavorare come prima. E allora vi leggo i dati dell'Enit, che prevede che se le condizioni di mercato non cambieranno, una riduzione delle presenze italiane e straniere di circa un terzo, meno 35%, cioè da 430 milioni di persone a 280 milioni. Il centro studi di Federalberghi si aspetta una perdita di oltre 300 milioni di presenze, è molto più pessimista, meno 70%, con un calo di fatturato del settore ricettivo pari a 17 miliardi, 71% in meno. Per i mesi estivi si attende una lenta ripartenza del turismo domestico, mentre si ritiene che la domanda straniera continuerà a risultare sostanzialmente assente. Anche la CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani, stima una contrazione del 73% nei primi sei mesi del 2020 dei ricavi dal turismo, e faccio notare che il giro d'affari valeva 57 miliardi l'anno scorso nei primi sei mesi, quest'anno è atteso a 16 miliardi. E poi tra luglio e settembre mancheranno all'appello 25 milioni di stranieri. Lì bisogna capire come, per un totale di 98 milioni di presenze in meno, e tra febbraio e settembre la perdita di stranieri dovrebbe essere intorno ai 50 milioni, cioè 180 milioni di presenze in meno, anche perché l'anno scorso gli arrivi degli stranieri sono stati 63 milioni per 218 milioni di presenze, quindi da Germania, ma non solo, Stati Uniti, Francia, Regno Unito sono i turisti, ed è ovvio che qui il danno sarà anche nelle città d'arte. Tra l'altro io non so cosa fare più per la mia Venezia dopo l'acqua alta storica di novembre, il Covid, adesso pure un incendio che sta bloccando i veneziani nelle case, non so, facciamo dell'esorcismo qualcosa, perché... E comunque il tema delle città d'arte sarà un tema delicatissimo, perché lì si andranno a sommare i mancati turisti a poi città che non potranno neanche avere chissà che beneficio dalla ristorazione degli italiani o dei bar, perché temo che anche il nostro modo di andare al ristorante sarà diverso da prima. Comunque andiamo sul meteo e la pubblicità e poi cerchiamo di capire il ristoro, come e perché sta arrivando, come e perché non sta arrivando. Focus Economia. A 7:40 minuti, allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Andiamo dai 600 euro, poi alla cassa integrazione e poi ai prestiti garantiti dallo Stato alle imprese, in ordine anche di grandezza. Il decreto rilancio, che io ho chiamato ristoro, mette 21 miliardi e mezzo alla voce lavoro, di cui 15 miliardi per la cassa integrazione, in realtà come spiegava ieri Giorgio Pogliotti 3 miliardi serviranno a pagare la cassa integrazione di marzo ancora, perché ci sono delle code e se non finiti i soldi, e poi 4 miliardi e mezzo per i bonus autonomi. Partiamo da qui, al di là del tecnicismo, i 600 euro del mese di aprile previsti per 5 milioni di autonomi, professionisti, cococò in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, stagionali del turismo, lavoratori dello spettacolo, lavoratori agricoli. Abbiamo chiarito ieri i dettagli e che anche a maggio salirà a 1.000 euro, ma sarà riconosciuto solo ai liberi professionisti con almeno il 33% del fatturato di calo nel secondo bimestre, e poi non gli iscritti, se ho ben capito, agli ordini professionali. Però mi faccia capire una cosa: lei ha capito perché molti lamentano ancora, ce lo scrivono e mi sembrano dei profili, insomma, assolutamente degni di ricevere i 600 euro, di non aver ricevuto nemmeno i 600 euro di marzo? Cioè, cos'è che ha bloccato l'erogazione di 600 euro? Poi abbiamo visto segnalazioni di professionisti con un buon conto corrente in banca ricevere i 600 euro, e invece persone che sono ritrovate senza un lavoro improvvisamente, dagli istruttori di nuoto a chi lavorava nelle palestre, così, non segnalarci che i 600 euro non gli sono mai arrivati. Ma guardi, questo dipende. Prima di tutto bisogna, avendo un intervento simile per quel che riguarda gli importi, ci sono delle casistiche differenti, perché da un lato mettiamo i professionisti iscritti agli ordini professionali, che ovviamente hanno una normativa differente anche per quanto riguarda le soglie di reddito che dovevano essere rispettate, le soglie di reddito massimo per poter avere il bonus. Invece molto più variegato è il mondo degli altri professionisti iscritti alle gestioni separate dell'INPS, che hanno potuto fare richiesta attraverso il sito dell'INPS, e l'INPS dichiara di aver corrisposto tutti i bonus che sono stati richiesti. Questo perlomeno è quello che l'indicatore che viene dato dall'istituto. Io credo che laddove ci sono state delle situazioni di non corresponsione bisognerà andare a vedere caso per caso come è stata fatta la domanda e se ci sono delle difficoltà. Dal nostro osservatorio, per quanto riguarda la gestione separata INPS, per cui non c'era addirittura, giustamente sottolineato lei questo passaggio, non c'era il limite di reddito che poteva i famosi 35.000 euro oppure sotto i 50.000 completi di fatturato, il 33% valeva solo per gli iscritti quelli all'ordine. Li hanno regalati soltanto a noi, soltanto agli iscritti agli ordini. Okay. Lì c'è ovviamente invece una problematica di reddito, oltre al fatto che, attenzione, c'è anche una problematica legata alla contemporanea iscrizione a più forme pensionistiche, e quindi bisogna vedere se le persone che le hanno segnalato questo hanno questa problematica, oppure per esempio il fatto che lo stesso decreto rilancio, comunque perlomeno nelle bozze che noi conosciamo, che abbiamo visto fino al momento, rende incompatibile questo strumento con la percezione di un assegno previdenziale, magari per una piccola invalidità, piccolo assegno di invalidità che viene corrisposto al lavoratore. Chi percepisce una pensione, anche se minima, anche se un minimo assegno, non può percepire i bonus. Sì, io non riesco ancora a capire, le segnalazioni che ci sono arrivate riguardano per esempio, ripeto, lavori diversi, tipicamente in collaborazione, ripeto, appunto l'istruttore di nuoto piuttosto che chi collaborava nelle palestre, me ne sono arrivati moltissimi di questo genere. Lei, così poi passiamo invece alla casa integrazione in deroga, lei che cosa può ipotizzare? Perché in quel caso è difficile che uno avesse un assegno di invalidità, proprio visto anche il lavoro e anche la giovane età. Ma può esserci una contemporanea, per esempio, iscrizione a un'altra gestione perché magari hanno fatto delle supplenze scolastiche, ecco perché mi viene da dire potrebbe essere questa la situazione, cioè il fatto di avere una contemporanea iscrizione, anche se veramente minimale, perché magari si fanno poche ore di lezione per cercare di acquisire punteggi per poi essere richiamati nel sistema della scuola pubblica, ma questo abbiamo visto anche per dei colleghi che magari si trovano in questa situazione che rende incompatibile lo strumento del bonus con questa tipologia di inquadramenti. Attenzione anche appunto all'iscrizione nelle casse. Veniamo alla cassa integrazione in deroga, perché sappiamo che quella ordinaria, come abbiamo spiegato, è prevista per gli eventi fuori dal controllo, e lì c'è l'anticipo all'impresa e poi si rivale sull'INPS. E poi c'è quella straordinaria che però valeva solo per imprese con più di vale solo per imprese con più di 5 dipendenti. Ed ecco perché il governo, nella prima versione nel Cura Italia, aveva già introdotto la cassa integrazione in deroga, ossia bastava avere un dipendente. Il problema, abbiamo capito, che non essendo stata riformata, la cassa integrazione in deroga aveva un percorso molto lungo, perché poi di mezzo c'erano le regioni oltre che l'INPS. Le chiedo, alla luce di quello che ha deciso il governo sulla cassa integrazione in deroga, secondo lei a questo punto la mossa è sufficiente per snellire le procedure di cassa integrazione in deroga? Beh, sicuramente un passo avanti se viene riconfermato l'impianto che abbiamo visto nelle bozze. Il fatto che da 21 sistemi diversi, perché tante erano le procedure regionali, poi si arrivi a un'unica domanda che viene fatta presso l'INPS. Era la nostra richiesta, fare semplificazione e accorpare tutto in un unico processo, perché in questo modo avremo l'assegno ordinario, quello gestito dai fondi di solidarietà bilaterale presso l'INPS o quelli artigiani, e la cassa integrazione guadagni ordinaria, sempre gestita presso l'INPS. Quindi avremo una copertura globale del sistema delle aziende, dalla microimpresa alla grande impresa, che potranno fare richiesta delle ulteriori settimane direttamente all'istituto assicuratore. Che anticipa anche il 40%, se ho ben visto, una cassa integrazione in deroga entro 2 settimane, giusto? Sì, c'è una previsione di un 40% delle indennità richieste per ovviamente le settimane ulteriori che andranno a essere presentate richieste dalle aziende. Quindi un 40% di anticipo, salvo poi un conguaglio da parte delle aziende con le comunicazioni che faranno i consulenti del lavoro, e quindi speriamo veramente di poter velocizzare i tempi. I presupposti secondo me sono buoni, perché laddove si semplifica noi siamo sempre disponibili a lavorare e a trovare anche un punto di incontro con l'INPS. Adesso all'INPS spetta scrivere la circolare di semplificazione, e su quello noi vigileremo attentamente, cercheremo di portare quella che è la nostra esperienza di chi ha spedito milioni di richieste. Allora, e questo, diciamo, è già una buona cosa, visto che si era bloccata molto la cassa integrazione in deroga. Veniamo all'ultimo aspetto, gli aiuti alle imprese, che non fanno parte del decreto che ho chiamato ristoro più che rilancio, ma sono un tema che stiamo dibattendo da giorni. Allora, voi avete fatto tra l'altro un sondaggio con 1300 consulenti del lavoro sulla reale situazione dei prestiti alle piccole e medie imprese garantiti dallo Stato. La cosa più che a me fa più specie è la parte sui 25.000 euro, perché l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, il Medio Credito Centrale hanno tutti chiarito che lì si può andare, la procedura dovrebbe essere molto snella, a parte la certificazione appunto antiriciclaggio e vedere la posizione del correntista. Che cosa avete scoperto dal vostro, diciamo, sondaggio? Ma guardi, il nostro sondaggio dice chiaramente che sia per quanto riguarda l'anticipazione bancaria sulle casse integrazioni, che per quanto riguarda il microcredito, quindi il prestito fino a 25.000, ci sono poche domande, ma a fronte di poche domande sono veramente molto molto poche le autorizzazioni. Stimiamo sui due interventi un 6% di soggetti che hanno ottenuto ciò che chiedevano. Ecco, questo credo che vada segnalato, perché i protocolli ci sono, noi l'abbiamo sempre sottolineato, dei protocolli che richiedono comunque già in fase di presentazione della domanda la fornitura di tutta una serie di documenti. Dal nostro sondaggio emerge che molti istituti bancari chiedono documenti aggiuntivi rispetto a quello che è il protocollo ABI. Teniamo conto del momento, teniamo conto della difficoltà che il cittadino ha nel recarsi, certo, in banca, perché la maggior parte degli istituti ancora non fanno normale attività di sportello, e soprattutto teniamo conto che si tratta di strumenti emergenziali. Lei ha ribattezzato il decreto rilancio come decreto ristoro, io lo chiamo respiro, perché spero veramente che dia un po' di respiro a chi sì, ha bisogno. Sì, però è abbastanza incomprensibile questa cosa delle banche che chiedono. Ma secondo lei pesa il tema del, che noi abbiamo chiamato della manleva, cioè il timore che hanno alcuni dirigenti bancari che un domani possa svegliarsi un tribunale e dire tu hai prestato soldi a un'impresa che poi è fallita, quindi hai partecipato al fallimento? Cioè il rischio penale? Ma io penso che in ogni soggetto con responsabilità pesi la modalità con cui altri possono valutare come hai agito sulla base di quella responsabilità che ti è stata data. Quindi io penso che ci sia anche questo aspetto, questo è ovviamente il mio punto di vista, ci sia la preoccupazione di non venire tacciati un domani di superficialità. Teniamo sempre conto che poi stiamo parlando di questioni delicate. Ieri abbiamo ospitato in una nostra trasmissione il procuratore Cafiero De Rao, che dice stiamo attenti a quelle che possono essere anche ma l'antiriciclaggio non lo prendevo in considerazione, quello va fatto, ci mancherebbe. Comunque, per dare i dati aggiornati, le domande sono arrivate, sono 191.000 per 9 miliardi e 300 milioni, di cui la stragrande maggioranza sono quelle fino a 25.000 euro, che sono 165.000 per quasi 3 miliardi e mezzo di finanziamenti richiesti. Qui però è l'ABI che ci dà le domande, non ci dice quante di queste vengono evase, e anche se Gualtieri ha garantito che le norme consentono di erogare 25.000 euro in 48 ore. Voleva concludere, Presidente? Sì, dicevo, il nostro osservatorio quota intorno al 6%, sia delle domande per le casse integrazione, sia per quelle sui finanziamenti. Che è una percentuale bassissima, e oserei dire anche inaccettabile. Bassa. Grazie al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. Grazie a voi e una buona giornata. Dunque, mentre stavamo parlando con la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, continuavano ad arrivare messaggi, io li devo prendere per buoni, mi scrive un ascoltatore che è consulente esso stesso del lavoro, mia figlia avvocato non ha ancora ricevuto il contributo di 600 euro, mentre ribadisco che il tetto c'era 35.000 e 50.000 per gli iscritti all'Ordine, me l'ha chiarito bene anche ieri Giorgio Pogliotti. Io alcuni messaggi non li capisco, cioè non li capisco, se li capisco benissimo non capisco perché non siano arrivati 600 euro. Altri mi stanno segnalando che invece 25.000 euro gliel'hanno fatti. È ovvio che non ho un osservatorio né scientifico né statistico da questo punto di vista, però insomma io mi chiedo solo se non fosse possibile un modo ancora più veloce per recapitare questi soldi, e soprattutto la cassa integrazione che si è incagliata. Capisco l'INPS, che sta, però allora, al di là delle borse, continuiamo invece col decreto rilancio ristoro, e saluto Michela e Finizio del Sole 24 ore. Buonasera Michela. Buonasera. Per la parte legata alle famiglie, cioè la quarta gamba del tavolo di questo decreto che mancava, perché ieri ci siamo fermati appunto alla parte sui lavoratori. Allora, le misure per le famiglie valgono in tutto 4,6 miliardi. Ci sono i congedi parentali e bonus babysitter per 700 milioni. Smart working, fondo per la disabilità. Poi arriveremo al bonus vacanze. La parte più consistente, oltre al bonus vacanze, che il governo ci stima valere 2 miliardi e 400 milioni, secondo me in realtà è talmente complicato, insomma, che verrà poco utilizzato. Michela, la parte principale mi sembra poi il reddito di emergenza. Che sì, caratteristiche, poi ne continuiamo il ragionamento dopo il GR24, ma che caratteristiche ha questo reddito di emergenza e può essere cumulato a altre forme di sussidio? Penso reddito di cittadinanza, pensione di invalidità, pensione di cittadinanza. Certo, allora il reddito di emergenza, così come l'hanno concepito fin dall'inizio, in realtà serve proprio per andare a prendere una fetta di popolazione che non era coperta probabilmente da altre misure di sostegno al reddito. È un contributo da 400 a 800 euro mensili che viene dato ovviamente a famiglie in base ovviamente ai componenti del nucleo familiare. Ci devono essere dei requisiti di ISEE sotto i 15.000 euro, quindi una soglia ISEE anche più alta del reddito di cittadinanza. Un reddito, cioè, familiare... la soglia dell'ISEE è più alta, quindi dovrebbe beccare più persone rispetto al reddito di cittadinanza, ho capito bene? Sì, diciamo che rispetto alla soglia ISEE del reddito cittadinanza, che è 9.370 euro, la soglia del REM è più elevata. 15.000. È chiaro che è una popolazione comunque che deve avere anche altri requisiti, perché chiaramente devi avere anche un reddito familiare mensile sotto l'importo del REM stesso, quindi deve essere l'intero reddito familiare sotto i 400-800 euro a seconda di dove si arriva, quindi è un reddito. E comunque, poi non puoi avere un patrimonio immobiliare, cioè titoli, esatto, così superiore ai 10.000 euro, giusto? Conti e risparmi, esatto, conti e risparmi non devono essere superiori ai 10.000 euro, poi aumentati di 5.000 euro per ogni componente aggiuntivo, insomma, del nucleo, fino a un massimo di 20.000 euro in conto corrente praticamente. Questo è sicuramente un tipo di target con redditi molto bassi in questa fase, certo. Ovviamente però vanno... Allora, Michela, resta con noi perché mi interessa molto capire quale potrebbe essere la platea, poi stanno arrivando molte domande invece sul congedo parentale per i dipendenti pubblici e altre domande sul bonus babysitter. Rispondiamo dopo GR24 e dopo aver raccontato anche i dati diffusi dalla Protezione Civile in questi minuti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14. Su Radio 24. Vi siete persi nella giungla dei libri e non sapete cosa scegliere? Niente paura! Radio 24 vi viene in soccorso con Il Cacciatore di Libri. Due scrittori e due romanzi per ogni puntata. Una chiacchierata informale per scoprire qualcosa in più sui personaggi e i loro autori. Sono Alessandra Tedesco, vi aspetto ogni sabato per parlare di libri. Siamo in onda ogni sabato alle 15.30, ma resta l'appuntamento per i mattinieri alle 6.30. Se avete nostalgia della versione serale, c'è sempre il podcast su radio24.it. Focus Economia. Otto minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di tornare con Michela Finizio per capire i provvedimenti che riguardano le famiglie, diciamo, dentro il DL rilancio o ristoro, devo dare i dati della Protezione Civile, che sono tutti in calo, quindi positivi rispetto a ieri, anche se il calo dei decessi non ci può certo far contenti, perché è vero che sono calati rispetto, ma sono comunque 242 decessi in più rispetto a ieri. È un dato che è tornato da due giorni almeno sopra i 200, e chiaramente la cosa non ci può da ieri sopra i 200, era vicino ai 200 mercoledì, dopo dei dati buoni invece nell'inizio settimana. Però i ricoveri sono, allora, i positivi sono meno 4.370, e quindi il dato è particolarmente buono perché c'è un meno 5,7% rispetto a ieri. Ieri era stato un meno 2,6, è uno dei dati più forti, sicuramente il più forte della settimana, quello sul calo dei positivi. Bisogna tornare indietro fino al mercoledì 6 maggio. I decessi, dicevo, purtroppo sono ancora saliti altri 242, cioè sono scesi rispetto a ieri ma sono ancora sopra i 200, più 0,8%, dato identico in percentuale a quello di ieri. I guariti sono 4.916, e quindi anche questo è molto forte come dato, più 4,3%. Ieri erano stati 2.700, il dato più forte di tutta la settimana fino a sabato scorso dei guariti. E il totale dei contagiati è più 789, anche questo migliore rispetto a ieri, l'altro ieri e anche a martedì, sostanzialmente è come quello di lunedì. Le terapie intensive meno 47 persone, e anche in questo caso il dato è buono, meno 5,5%. E ancora il totale dei ricoveri ha fatto meno 5,8%, e anche questo è un dato buono, perché è simile a quello di ieri, erano in calo anche ieri, e quindi ieri è stato meno 4%, meno 708. Ripeto, l'unica cosa riguarda, l'unico dato non bello, pur in leggero calo rispetto ai 262 decessi di ieri, il dato sui decessi, che tutti quanti speravamo essere più basso almeno della soglia dei 100. In realtà ci sono stati 111 decessi in Lombardia, e quando la Lombardia ha dei decessi alti, tutto il dato complessivo del paese risulta appunto in peggioramento, o comunque non in miglioramento per quello che riguarda i decessi. Allora, Michela Finizio, stavamo ragionando sul il reddito di emergenza, che come dicevi tu va a cercare di coprire altre platee non raggiunte dal reddito di cittadinanza, ha una soglia di ISEE più alta rispetto al reddito di cittadinanza, 15.000 euro contro i 9.000 del reddito di cittadinanza, devi avere un patrimonio, cioè risparmi, conto corrente, quant'altro, non superiore ai 10.000 euro, che cresce per ogni componente fino a un massimo di 20.000 euro. E l'importo, se ce lo puoi ricordare di nuovo, quale dovrebbe essere, e soprattutto che platea si immagina possa raggiungere? Certo, allora in realtà l'importo varia ovviamente in base al numero dei componenti, va da 400 euro minimo a 800 euro, ma al massimo ovviamente questo dipende dalla scala di equivalenza, che può essere ovviamente moltiplicata a seconda del numero dei componenti del nucleo. In realtà già tre componenti del nucleo arriva a 800 euro, che è comunque il tetto massimo, quindi le famiglie con figli già arrivano insomma comunque a questo tetto di 800 euro. Di fatto io credo che non sia benissimo chiaro la quantità ancora di coloro che potranno accedervi, anche perché ricordiamo che comunque può essere richiesto l'aggiornamento dell'ISEE con l'ISEE corrente, che è uno strumento che sicuramente adesso con questa crisi verrà chiesto tantissimo, perché è vero che l'ISEE fa riferimento ai redditi dei due anni precedenti, però è anche vero che da ottobre 2019 è molto estesa la platea che può accedere all'ISEE corrente, che è di fatto uno strumento che ti permette di aggiornare l'indicatore dell'ISEE alla situazione attuale. Okay. E quindi questo immagino che a seconda delle varie situazioni, certo, che si stanno creando nelle famiglie possa permettere a molti. Ti faccio un esempio, entrare. Mi scrive una ascoltatrice che è separata con due figlie, 13-11 anni, con un ISEE di 2.700 euro, così leggo, le hanno accettato la disoccupazione per 63 giorni dal 14 aprile, chiede se avrà diritto al bonus, immagino il reddito di emergenza. Sì. Allora, il reddito di emergenza di fatto sì, cioè adesso mi viene a dire di sì, anche se ci sono, chiaramente non si può ottenere se si ha il reddito di cittadinanza, e perché sono considerati incompatibili. Mm-hmm. E ovviamente sono due mensilità, quelle del reddito di emergenza, stiamo parlando di aprile e maggio. Mm-hmm. Poi dopo immaginiamo che ci saranno dei vasi comunicanti, magari in cui dal reddito di emergenza poi si passerà al reddito di cittadinanza dopo maggio. In questo momento si tratta di due mesi coperti, ovviamente non possono essere i destinatari già raggiunti da altre forme. È questo che non capisco, perché quando mi dice mi hanno accettato la disoccupazione, non capisco se... Però la disoccupazione immagino che possa essere una NASPI o un DISCOL, o comunque una indennità di disoccupazione, in questo caso non è considerata un fattore di... è un requisito che non compatibile con il reddito di emergenza. Non è compatibile, quindi? No, non è tra quelli di incompatibilità, quindi potrebbe sì. Non è tra quelli di incompatibilità, come per esempio il reddito di cittadinanza. Il reddito di emergenza non richiede che tu sia un lavoratore, ovviamente, quindi potrebbe essere sicuramente, cioè puoi anche essere un disoccupato. Lei come ha appena scritto alla NASPI e quindi avevi... Sì. Allora immagino di sì, insomma anche... Di fatto è un sistema che comunque aspettiamo la circolare IMSS, sì, come tutte le volte. La circolare IMSS, perché qua siamo... Esatto. Allora andiamo ai congedi parentali e ai bonus babysitter. Mi chiedono molti ascoltatori, complessivamente valgono 700 milioni di euro, c'è una proroga fino a 30 giorni a vantaggio dei genitori e lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore ai 12 anni e riceveranno un'indennità pari al 50% della retribuzione. E questo è il congedo parentale, poi arrivo al bonus babysitter. E per il pubblico non c'è niente? Allora, no, il congedo parentale può essere richiesto anche dai dipendenti pubblici, laddove chiaramente stiamo parlando di dipendenti che hanno questa copertura. Sono 30 giorni di lavoratori, per i lavoratori chiaramente che hanno figli sotto i 12 anni fino al 31 luglio, quindi questa data che hanno inserito un po' dovunque come fine dell'emergenza Covid, quindi abbiamo a decorrere dal 5 marzo, quindi ci sono persone che l'hanno anche già di fatto fruito e che magari avranno qualche giornata residua, essendo esteso a 30 giorni, e potranno in qualche modo richiederlo. E ovviamente bisogna che entrambi i lavoratori, i genitori siano lavoratori, perché non può essere l'altro genitore, ad esempio, in cassa integrazione o percettore di altre forme di sostegno al reddito. Certo. Devono tutti due lavorare, chiaramente, perché sennò viene meno l'idea del congedo parentale. Bonus babysitter, per quello che riguarda viene aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di babysitting da 600 euro a 1200 euro. E questo bonus può essere utilizzato in alternativa direttamente dal richiedente o quando invece è al settore sanitario o pubblico privato accreditato, il limite massimale complessivo passa da 1.000 a 2.000 euro. Non ho capito quasi nulla di questa norma, per cui se diciamo mi aiuti tu. Che il caso è lo stesso dei genitori che possono accedere al congedo parentale restituito al 50%, quindi entrambi lavoratori, nessuno dei due disoccupato e nessuno dei due percettori, insomma, di forme di sostegno al reddito perché magari è stato sospeso dall'attività lavorativa, quindi diciamo che devono essere in lavoro tutti e due, ma anche in smart working, quindi diciamo che lo smart working viene riconosciuto se uno dei due è in smart, possono accedere al congedo o in alternativa a questo bonus, l'hanno chiamato così, babysitter. È un importo abbastanza elevato perché sono 1200 euro, è stato ampliato dai 600 iniziali ai 1200 euro, che potrà essere speso o per babysitting, quindi per attività, proprio per prestazioni occasionali, perché verrà erogato tramite libretto famiglia, che ricordiamoci è uno strumento che mette a disposizione l'INPS per le prestazioni occasionali, quindi potrà essere di fatto utilizzato per pagare la babysitter oppure per pagare questi centri estivi di cui ci si aspetta, insomma, qualche novità nelle prossime ore, che dovrebbero... Certo. Aprire a partire da giugno per poter accogliere i minori tra i 3 e i 14 anni. Anche perché le mamme e i papà dovrebbero essere al lavoro, ci auguriamo, in quella data. Esatto, e quindi è stato pensato tutto questo pacchetto proprio per andare a sostenere quelle famiglie che hanno che i genitori entrambi lavoratori e i figli a casa. Ovviamente stiamo parlando di una platea, cioè non è un contributo alle famiglie tout court, è una platea di persone, chiaramente lavoratori, che hanno bisogno di sostegno perché hanno i figli a casa, certo, dovuto alla scuola chiusa, eccetera, eccetera. Allora, nel ringraziarti, chiudo io sul bonus vacanze, perché già l'abbiamo affrontato ieri con Gianni Trovati. Allora, quando parlavamo del settore turismo, io temo che sia molto complicato il meccanismo, perché è vero che ci sono fino a 500 euro per le spese sostenute nei soggiorni in ambito nazionale, in alberghi, campeggi, villaggi, bed and breakfast. Lo possono richiedere le famiglie con reddito ISEE fino a 40.000 euro. L'importo è modulato in base al nucleo familiare, quindi 500 euro con 3 o più soggetti, 300 euro per le famiglie di 2 persone, 150 euro per la famiglia di 1 persona. Il contributo potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre, l'80% sarà uno sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura il restante 20% come detrazione dell'imposta sul reddito. Secondo me si poteva fare tutta detrazione d'imposta, era un po' più semplice almeno, oppure a me non piace questa cosa, l'80% alla struttura, tu vai dalla struttura che poi dovrà arrivare essi, non si capisce bene su chi, mi sembra un po' complicato il bonus vacanze. Comunque non è da lì, non è solo da questo che partirà il rilancio del settore, anzi temo, lo dico di nuovo, che il settore avrà bisogno di aiuti, il settore turismo a fondo perduto. Adesso andiamo sul traffico, però a chi mi dice, lei non dice che la regione Lombardia è merito della regione Lombardia se sono calati tutti gli indicatori, mi sembra abbastanza implicito, guardi che io non ce l'ho con la regione Lombardia, abito in Lombardia e non vedo l'ora che gli indicatori della regione Lombardia migliorino continuamente. Ho detto solo che quando, siccome esce prima la regione Lombardia, quando vedi in aumento o comunque un livello alto i decessi in Lombardia, ormai ci siamo abituati che purtroppo anche il dato nazionale tende a essere non bello, o vogliamo dire che 242 decessi, quando ci si aspettava una settimana meno sotto i 200, sono belli. Traffico. Focus economia. Non sono mai stato norma e sono sempre arrivati nel weekend precedente dell'apertura. Anche su questo, il 24 aprile abbiamo sottoscritto un protocollo che è stato utilizzato per l'apertura credo del 27, quindi è normale che ci sia in queste ore un dibattito sui testi. Non è normale che il governo ti dica su Radio 24 come se fosse la cosa più normale del mondo: hai un'attività economica chiusa da 3 mesi? Bene, se vuoi riaprire lunedì devi aspettare domenica per avere i protocolli per capire con quali condizioni di sicurezza riaprire. A me sembra veramente lontano dal mondo dell'economia, dal mondo reale, però non so se sembra solo a me così. Se ci sono delle regole di sicurezza per un parrucchiere, per un bar, per un negozio di biciclette, per un ristorante o per un albergo, queste devono valere nella stessa forma in tutta Italia, da Bolzano a Lampedusa. Non è che fai delle regole per i parrucchieri di Bolzano, per i parrucchieri di Roma, per i baristi di Palermo. Questo allo Stato le imprese chiedono, regole chiare. Mi dici quante mascherine, quanti clienti, con quali orari di apertura, con quanta distanza. Se io posso riapro lunedì, se non posso riapro settimana prossima. Questo non c'è. Allora, questa mattina non ho ospiti, come avete sentito, sia il ministro allo sviluppo economico Stefano Patuanelli a 24 mattina con Simone Spezia e Maria Latella, che poco dopo Matteo Salvini. Il tema era quanto tempo dai agli esercizi commerciali che devono riaprire. Io non ho problemi a dire che non è ancora un reato essere d'accordo con Salvini, secondo me non deve arrivare, non può arrivare la domenica, purtroppo delle volte è successo così. E soprattutto io sono d'accordissimo che se le regole sono di carattere sanitario, non è che il virus cambi l'accento, parla toscano, parla lombardo, parla umbro, i 2 metri, decidiamo che sono 2 metri, devono valere per tutti. Quindi non vorrei vedere la corsa delle regioni andare in deroga sui dispositivi sanitari decisi dal governo, cioè le disposizioni sanitarie del governo. Allora, mi sembra questo il tema dell'incontro anche di oggi tra governo e regioni. Barbara Fiammeri, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Barbara, si è capito che il 18 riaprono tutti gli esercizi, ma tu hai avuto anche conferma che non si potrà andare in deroga, perché quello che dice Salvini secondo me ha più di un elemento di correttezza. Ma La confusione è tale che in questo momento è sospeso il Consiglio dei Ministri. Benissimo. Che aveva all'ordine del giorno l'approvazione di un decreto legge che avrebbe stabilito, diciamo, le linee guida della nuova riapertura, perché la riapertura è già cominciata il 4 maggio scorso, sì, certo. Questa nuova fase di questa nuova fase 2. Tra le varie linee guida c'è per esempio quella che prevede gli spostamenti tra regioni a partire solo dal 3 giugno, no? Poi sì. Dovrebbe esserci dopo l'approvazione di questo decreto legge, un DPCM, abbiamo imparato a conoscere questo acronimo, no? In cui vengono, tra l'altro, oltre che rivisti tutta una serie di divieti che abbiamo sopportato lungo il lockdown, quindi si prevede che tutta una serie di divieti vengano rimossi dalla possibilità di accedere ai parchi, appunto agli esercizi commerciali. No, ma anche la mobilità interna alla regione. Cioè la mobilità interna alla regione. Potrai vedere i tuoi amici, non hai più bisogno dell'autocertificazione. Qual è il problema? In questo momento il Consiglio dei Ministri è sospeso e le regioni nel frattempo si stanno incontrando tra di loro. Il tema è il seguente: il governo ha detto e confermato anche stamattina nella riunione con le regioni che avrebbe dato piena autonomia decisionale alle regioni perché si realizzasse quella famosa decisioni territoriali, perché come si è detto in queste settimane scorse, la Basilicata non è la Lombardia, uso questa espressione perché sì, è stata abusata. Qual è il tema però adesso? Che ci sono, c'è stata una rivolta contro le linee guida INAIL. Allora, alcune regioni si sono dotate di loro protocolli e infatti il decreto, quello che è all'esame del Consiglio dei Ministri sospeso, prevede che ci sono i protocolli nazionali INAIL, ma qualora le regioni abbiano propri protocolli di sicurezza, quindi in cui individuano che non sono 4 metri ma 2 metri, 1 metro e mezzo, non lo so, quello che vogliono, questi protocolli di sicurezza regionali vanno bene lo stesso purché rispettino quelle che sono delle indicazioni di principio. Allora, cosa dicono le regioni? No, perché qui non si capisce bene se poi queste indicazioni di principio, come dire, un domani io vengo richiamato da qualcuno e qui ritorno alla responsabilità, certo, che mi dice perché tu regione hai messo i tavolini a 2 metri, a 1 metro anziché a 4 come diceva l'INAIL, quindi se tutta una serie di danni che io ho subito possono risalire a questo, io ti posso anche citare per questo. Certo. Inoltre c'è una confusione, come dicevi tu poc'anzi, delle stesse imprese, perché a chi deve dare retta un'impresa? Al protocollo INAIL nazionale oppure deve dare retta al protocollo di sicurezza perché, della ecco propria perché, regione? Ecco perché io penso, conoscendo le imprese, tu andrai a dare retta al protocollo INAIL se vuoi metterti al sicuro nazionale, perché vuoi evitare che un domani vi sia una causa, o qualcuno che dica no, ma tu non hai rispettato il protocollo INAIL nazionale, ma la regione era andata in deroga, è questo che io vorrei evitare. Cioè, secondo me, io non ho capito bene che cosa vogliono adesso le regioni, perché se da lunedì riaprono tutte le attività commerciali, parrucchieri, negozi e quant'altro, lo spostamento è possibile dentro la regione senza l'autocertificazione, quindi le seconde case, così il governo stabilisce che però da regione a regione non ci può andare, quella non è materia regionale. Anche se abbiamo visto Friuli e Veneto muoversi in questo senso, perché c'era il tema anche dei congiunti che abitano in una regione limitrofa. Io non ho ben capito che cosa vogliono di più le regioni. Adesso dovremmo, tu ci hai appena comunicato che è sospeso il Consiglio dei Ministri perché si mettono, come tu ricordavi, in una situazione molto molto pericolosa anche per gli operatori economici, che a quel punto non sanno se dare retta alla regione X o a quello che era il protocollo INAIL, con il rischio che poi di fronte a una causa faccia fede al protocollo nazionale. Barbara Fiammeri, grazie per averci illustrato in maniera plastica che in questo momento sia uno stallo di fatto, perché le regioni stanno iniziando ad aver paura di dire no, non ci puoi scaricare poi l'eventuale colpa se siamo andati in deroga al protocollo nazionale. È veramente tutto per questa puntata, sicuramente lunedì, e spero molto prima, sapremo come si riapre, non che cosa, ma come si riapre. Intanto un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione in studio anche questa settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.